Cioè, Gino, hai sentito? Black Mafia, Black Mafia. Minchia, ma che cazzo raccontano questi negri? Oh, hanno troppo guardato la TV quest'anno? Sì, sì. Invece di andare al cinema, dovrebbero stare a casa a seguire le informazioni, così capiranno che cazzo è la mafia. Oh. Vero, eh? E poi, scusate un attimo, scusate. Chissà cosa vuol dire Cosa Nostra. Cosa vuol dire? La Cosa Nostra, non quella di tutti, ancora meno quella dei negri, oh. Vero? E poi, non lo so, sei nero, vai a fare la tua musica. Balla, gioca a pallacanestro, gioca anche a gol se vuoi, ma lascia le cose serie alla gente seria, vero Gino? Minchia, chi cazzo è ancora? Aspetta, pronto? Chi è? Ehi Puccino, come sta padrone? Senta, non si preoccupi, faccio di tutto per recuperare la settimana... La settimana prossima, solamente una piccola settimana, si fidi. Ok, 48 ore ce l'avrà. No, 24. Come 24? Ma 24 ore è domani. No. Ok, te lo do domani. E poi se non te lo do domani, vaffanculo.